Io c'ho paura, Duccio. Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè? Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada. Tu non lo leggi? Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto. Manca il Corriere dello Sport, posso leggere? Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio. Blow no Reggie my way. Matter of fact, stay on my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spin. Fucking the commas, my verses look crazy on paper. I write them in pen. Ain't no erasing mistakes, we just learn from them till we earn from them. That's how I started talking this water. That's when we started making the money. Six figures and not one was a father. And wonder how a nigga fuck up your daughter. Same way I fuck up my lungs. You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Buonasera, prima di tutto lo diamo a Santo Peli, con cui andremo a parlare di questo libro, che tra l'altro è una ripubblicazione a cura di Edit Press, della sega di Hitler, è uscito già nel neanche lontanissimo 2004, l'autore è Manlio Calegari, che ha raccontato un pezzo di storia della resistenza prima e comunista dopo nella sua produzione letteraria, perché poi ne ha scritti di libri, tra l'altro anche di libri per quanto riguarda la storiografia abbastanza importanti. Ciao Santo, buonasera prima di tutto. Buonasera a voi. Tu hai curato l'introduzione di questo libro, cominciamo, di questa ripubblicazione appunto della Edit Press, una ripubblicazione che arriva a distanza di quasi 20 anni. Dove nasce l'idea di ripubblicare questo libro? Ma credo che l'editore abbia colto l'occasione, diciamo, di rimediare a uno di quei fenomeni abbastanza ricorrenti nella storiografia, e cioè il fatto che un libro decisamente importante, ma anche assolutamente originale e per certi versi, diciamo così, potenzialmente fastidioso, per di più pubblicato da una piccola casa editrice che non lo ha minimamente sostenuto, di fatto era diventato introvabile, e quando uscì non ebbe certamente la circolazione e il rilievo e non suscitò i dibattiti che avrebbe meritato, e quindi in realtà si tratta di riprendere un'occasione, ecco, di rimediare in qualche modo a un grosso buco. Edit Press, tra l'altro parlammo già della Edit Press tempo fa, al lancio anche di questa collana appunto di storia orale, che dà la centralità appunto alla storia orale nella sua produzione, come ha fatto tra l'altro rilanciando e ripubblicando questo libro. Certo, perché Calegari, diciamo, sta diventando, adesso che ha raggiunto anche una molto considerevole età, è diventato, dico paradossalmente, nel senso che mentre era molto attivo è stato sempre un autore estremamente appartato, diciamo, aveva alcuni convintissimi ammiratori e sostenitori, ma certamente non ha avuto una grande circolazione. Da quando, diciamo, l'interesse per la storia orale, per i metodi della storia orale e per i risultati possibili che si conseguono attraverso la storia orale, quando questo interesse è cresciuto, è diventato di fatto un po' un'icona, insomma, no? È diventato un maestro, ecco, è un punto di riferimento per i giovani ricercatori che intraprendono questo tipo di ricerche e che usano queste metodologie. Allora Calegari è diventato importantissimo, non c'è nessun dubbio che lo sia, però dal mio punto di vista è anche importante tenere presente che non si tratta semplicemente certamente è importante che lui usi la storia orale, senza quel tipo di metodi non avrebbe conseguito i risultati che ha conseguito, però a me interessa anche sottolineare l'importanza delle cose che lui ha portato in luce attraverso le sue ricerche, cioè al di là del metodo c'è una cosa di grande sostanza, insomma, decisamente importante. Se posso dire, tra le cose più importanti che Calegari ha messo in luce, è una cosa che per qualcuno sembrerà ovvia, ma non lo è ancora per buona parte della storiografia della Resistenza, per esempio. Nel volume che ha preceduto La Sega di Hitler, che si chiama Comunisti e Partigiani a Genova, una ricerca che si può definire anche monumentale per certi versi, basata anche molto sul lavoro storiografico d'archivio e non soltanto su testimonianze raccolte e fonti orali, vedi, a un certo punto Calegari ci spiega in una maniera incontestabile che il meccanismo interpretativo generale basato sull'idea quanti comunisti, quanti democristiani, quanti giustizia e libertà ci sono stati nella Resistenza andava sostanzialmente rovesciato, nel senso che lui ci spiega che in montagna, in Liguria, ma la cosa secondo me si applica anche sul piano generale, non è che ci vanno i comunisti, ci vanno i ragazzi, i renitenti, gli sbandati, i ribelli, i renitenti alla leva, e alcuni di questi diventeranno anche comunisti nel fare la resistenza, cioè si fa la resistenza, è la resistenza a produrre i comunisti e non sono i militanti comunisti a produrre la resistenza, ecco. Anche se questo non significa affatto che non ci sia un ruolo importante del partito nell'organizzare, nel produrre questo fenomeno, che però nasce appunto non come non è la trasformazione i comunisti determineranno, ma è grazie alla loro capacità di essere star dentro la resistenza dal punto di vista organizzativo, produrranno anche un'alfabetizzazione politica di base e una presa di coscienza che è successiva, però che è il risultato di queste esperienze, non ne è il presupposto. Ecco, soltanto un'affermazione di questo genere, che è il risultato di 20 anni di lavoro peraltro, meritava di essere fortemente al centro di un dibattito storiografico, perché era qualcosa di niente affatto scontata anche nei primi anni 2000 quando il libro uscì, e di questo nessuno gli ha mai dato merito. Tra l'altro nella sua produzione Calegari tira una linea che va dalla storia della Resistenza passando per le lotte operaie fino al 68. C'è tutto un legame, appunto un racconto che fa come se ci fosse una continuità politica e di lotta dal 44 al 68, se non sbaglio. Per verità gli oggetti di indagine ai quali si è applicato Calegari si estendono su un arco molto più consistente, perché lui in realtà viene dallo studio delle pratiche artigianali e soprattutto della trasmissione di sapere artigianali a partire dal 500, si è occupato di metallurgia, si è occupato di tecniche artigiane, si è occupato persino della storia delle bilance. Cioè la cosa che più lo caratterizza in questo lunghissimo percorso e molto vario è la curiosità inesausta con la quale si è applicato a capire cos'è che forma gli individui, direi così, insomma, perché è la trasmissione dei saperi o quanto conta l'ambito nel quale vivi, i rapporti familiari, eccetera, nel determinare quello che tu sarai e a un certo punto anche farai. Da questo punto di vista, per esempio, ricordavi giustamente il suo interesse per la generazione del 68, per le lotte operaie, esattamente come per quanto riguarda la guerra partigiana, la cosa che più gli interessa è capire perché alcuni, cioè cos'è che spinge alcuni individui a fare delle scelte e a ribadirle anche quando diventano costose e a scendere in lotta, diciamo, e altri no. E c'è anche un rifiuto di ogni spiegazione di tipo strettamente sociologico, cioè non basta essere operai per essere rivoluzionari, come non basta essere ricchi per essere diciamo così reazionari, insomma, no? E quindi ambienti culturali, estrazione, carattere, storia è individuale e che diventa collettiva poi ritorna a essere individuale. Questi sono questi i nodi ai quali lui si è sempre applicato e lo fa in particolare poi in questa sega di Hitler di cui dobbiamo parlare oggi, lo fa in un modo particolarmente intenso, naturalmente. La sega di Hitler, allora, la storia, ossia, parte dal 1985, non la storia del libro, la storia proprio del nome che viene dato al libro, ossia che è questo fucile mitragliatore tedesco che veniva chiamata proprio la sega di Hitler, ritrovata nel 1985, e da quel ritrovamento parte tutto un racconto, il pretesto, no, nel racconto di una formazione partigiana. Giusto? Allora, che libro è innanzitutto? Qual è il racconto che esce fuori, l'importanza, no, storica di un racconto del genere che va a raccontare appunto una o più formazioni partigiane che operavano in Liguria tra il 44 e il 45? Ecco, diciamo che c'è una formazione partigiana al centro della narrazione. E la narrazione verrà fatta attraverso la voce, le interviste fatte a partire appunto dall'85 fino alla fine degli anni 90 ad alcuni dei protagonisti di questa piccola brigata che si chiama Brigata Qualità. La prima cosa interessante è che sì, è una brigata partigiana, ma del tutto atipica. Ecco, io la definirei una brigata partigiana di stile gappista. Come sapete, i GAP sono una forma di organizzazione di lotta armata basata su piccolissimi gruppi o su singoli individui che operano all'interno delle città, no? Quindi con modalità molto diverse dalla guerra partigiana di montagna. Ecco, la brigata Balilla ha di specifico che è un gruppetto abbastanza selezionato all'inizio di una ventina di partigiani che vengono distaccati dalla montagna e messi a Bolzaneto, cioè all'estrema periferia ovest della città di Genova, e quindi lavoreranno di fatto a ridosso della città in un mordi e fuggi che in questo senso è di stile più gappista, avendo alcune basi addirittura nell'abitato, non sono più dislocati, non è più il partigiano di montagna da seppellire dove cresceranno dei bei fiori. È un combattente di città di fatto, però organizzato in brigata partigiana. Questo cosa comporta? Comporta un rapporto molto più stretto, immediato e deciso con la popolazione locale, cioè hai bisogno di una serie di basi e poi muoversi in 15-20 dentro l'abitato vuol dire contare su solidarietà, su organizzazione, eccetera, completamente diversa dal normale. E l'altra specificità è che questo gruppetto di partigiani fa una quantità di tutti morti, impressionante, cioè nel senso che loro non sono lì, a differenza del partigiano di montagna, un partigiano che prima di tutto si difende. Il gappista o il partigiano di città gappista, come se la brigata Gabriele Balilla, invece è un modo di fare la guerra armata di continuo attacco, cioè questi vanno in caccia, tant'è che il soprannome di quello che li guida, il comandante Battista, è cacciatore in dialetto ligure, e sono più addestrati, più armati, sono stati anche selezionati, cioè questa brigata si costituisce in realtà alla fine del lungo periodo di formazione della guerra partigiana, cioè dal novembre del 44, quelli che ci stanno dentro sono stati selezionati in qualche modo dalla lotta fino a loro e vengono scelti personalmente dal comandante. Non è per tutti il livello di rischio che hanno, il livello di esposizione e anche la determinazione che ci vuole per sparare così tanto, perché per farti un esempio di cosa significa far parte della balista, vuol dire fare dei blocchi stradali, fermare una corriera che esce da Genova, tirar giù tutti i passeggeri e ammazzare immediatamente sul posto quelli che hanno una divisa, che siano tedeschi o che siano, assaltare il camioncino della posta dell'esercito tedesco e ammazzare tutti quelli che ci stanno sopra, e che comporta naturalmente un livello di rischi piuttosto consistente e anche richiede appunto una determinazione, un rapporto con la vita e con la morte che può arrivare a te, ma che sei disposto sempre a dare ad altri, che è di tipo estremo rispetto alla condizione media del partigiano. Cioè, non è soltanto una storia partigiana, nel senso che poi c'è anche la storia, no? Il racconto di questi uomini che hanno fatto la storia. Alcuni, soprattutto uno, poi tornerà anche in un altro, leggevo che tornerà anche in un altro libro di Calegari, anche perché, come raccontavamo, intreccia, no? Poi la storia anche dei comunisti del dopoguerra, questo libro. E poi, appunto, c'è anche la storia di questi uomini giovanissimi all'epoca, che va pure a ridare, no? Il senso che era poi essere partigiani in quel quadrante, non solo in quel quadrante, ma in quel quadrante di paese, che è pure un quadrante, se vuoi, anche, no? come raccontavi, la montagna è molto a ridosso di Genova, ci sono anche dei fattori ambientali un po' particolari, la Liguria per come formazione. Sì, certamente, come dici tu, in realtà la storia di questi partigiani viene ripercorsa all'indietro e in avanti, nel senso che poi per capire chi sono, dove trovano la determinazione per fare quello che fanno, eccetera, da una parte bisogna ricostruire la storia della brigata in quanto tale, ma poi seguire i percorsi individuali, no? E in alcuni casi addirittura si riparte proprio dall'habitat, dalla mamma, dal papà, dal nonno, dalle elementari, e si arriva poi a quello che hanno fatto poi negli anni 70 e negli anni 80 anche. Chi ha fatto il sindacalista, chi invece non si è più voluto occupare di politica, chi è rimasto militante comunista rigorosamente ortodosso, eccetera, eccetera. Perché ha senso in particolare per questo tipo di partigiani seguire questo percorso un po' estremamente complesso? Perché questi hanno fatto delle cose non sono né ovvie né facilmente comprensibili, perché uno dei motori, lo dice chiaramente anche Calegari, uno dei centri di interesse della sua ricerca è che questa brigata Balilla è protagonista forse di quella che è la più grossa esperienza di contro rappresaglia praticata dai partigiani. Ecco, anche il fatto stesso di parlare di controrappresaglia vuol dire parlare di qualcosa che non è tanto mai stato sottolineato, no, dalla storia della resistenza, perché la questione della controrappresaglia, cioè del prendere dei prigionieri e ammazzare pensare come risposta a una rappresaglia tedesco fascista non è tanto ovvio. Per esempio, si potrebbe dire, e penso di dirsi proprio così, stiamo adottando gli stessi metodi di quelli che stiamo combattendo, no? Quindi è una forma, in realtà quante controrappresaglie sono accadute durante la resistenza? Non mi risulta che ci sia nessuna ricerca in proposito. Se ne, si trovano varie tracce disseminate, ma le scoprono i ricercatori, non ce n'è traccia, diciamo, nella storiografia consolidata. So, tutti sanno per esempio di Piazzale Loreto nell'agosto del 44, ne ha parlato Vittorini, ne ha parlato un sacco di persone, ci sono molti libri in proposito. Ecco, ma alla rappresaglia di Piazzale Loreto, dove vengono ammazzati 15 partigiani o detenuti politici, è conseguita per esempio un ordine del Corpo Volontario della Libertà che dice passare per le armi 40 o 50 prigionieri. Poi noi non sappiamo neanche quali gruppi le hanno fatte, queste cose, se le hanno fatte, eccetera, ma l'ordine di utilizzare la controrappresaglia è un ordine che viene dato parecchie volte, non abbiamo nessuna quantificazione. La controrappresaglia di cui è protagonista la Brigata Balilla nel marzo del 45 ha di straordinario che non accade sui monti, non accade lontano, non si tratta di un ordine che arriva dall'alto, ordiniamo a tutti i nostri aderenti di passare per le armi qualcuno, no, è la Brigata Balilla stessa che fa 3 giorni di cammino a piedi, raggiunge un campo di prigionieri, preleva 40 fascisti e tedeschi prigionieri, li porta nel punto dove era a Cravasco, nel punto dove era avvenuta una rappresaglia, dove cioè i tedeschi avevano ammazzato 19 prigionieri politici prelevati da Marassi, li portano lì questi 40 e li falciano, il che naturalmente rappresenta un episodio di una tale intensa drammaticità che anche soltanto chiedersi ma cosa avete provato quando avete fatto una cosa del genere, e l'avete fatta tutti, e scopriamo che alcuni che avevano 17 anni sono stati esentati dallo sparare, che altri che erano lì non hanno sparato, che altri invece hanno sparato, scopriamo che qualcuno non se l'è più dimenticato per tutta la vita e anzi continua a convivere con questo ricordo in maniera terribilmente tesa. Però nello stesso tempo questa è una scelta che hanno fatto tutti collettivamente, ecco, e nessuno degli intervistati da Calegari, anche a distanza di 30 anni, di 40 anni dal fatto, dice non lo rifarei, ma nello stesso tempo dice guarda, se ti devo spiegare cosa ho provato allora non posso farlo, perché non si può parlare della guerra come facciamo io e te seduti qua al bar. Insomma, ecco, non vorrei farvi capire che lo spessore delle tensioni etiche, ecco, delle questioni soggettive, oltre che politiche, che attraversano il libro, è qualcosa di assolutamente raro ed eccezionale, insomma. Allora, andando verso la conclusione, un giudizio da parte tua dello stato, no, della storiografia ad oggi, perché a me sembra che, nonostante la sovrapproduzione, perché sembrerà strano, no? Si fa sempre un ragionamento sul fatto di come venga trattata la storia in Italia, ma poi se poi andiamo a vedere le pubblicazioni, escono parecchi, parecchi libri, che poi la maggior parte manco siano scritti da storici, altro discorso, no? Però dai vari Cazzullo e compagni, no? Però mi sembra che esce parecchia roba, spesso anche di pessima qualità, però ne esce tanta. E tra la tanta stanno uscendo anche delle cose ben fatte, pensavo alla collana che ha fatto La Terza, quella fast checking, che stanno ridando, però anche hanno ricreato un minimo di dibattito, ad esempio intorno al libro di Greppi si è mosso qualcosa. È una sensazione mia o giusta o è completamente sbagliata? Beh, certamente sì, per esempio ancora meglio il libro della Colombini, che è uscito, esatto, sempre nella stessa collana, sta andando bene e rappresenta un'ottima panoramica dello stato della storiografia, del livello del dibattito e anche dei luoghi comuni che ci trovano in proposito. Però se devo dire più in generale rispetto alla, diciamo, allo stato del discorso pubblico sulla resistenza, la mia netta sensazione che si accentua di anno in anno è che stiamo tornando, per certi versi, abbastanza indietro, ecco. Cioè, essere dalla parte della resistenza, da parte di presidenti della Repubblica, ma anche dell'ANPI, ma anche dei discorsi pubblici e celebrativi, vuol dire tornare a una specie di interpretazione nazional popolare patriottica della resistenza. Questa è una sensazione che mi rinforza moltissimo, per esempio, non so se l'avete visto, ma il libro uscito l'anno scorso, curato da Gad Lerner, 50 interviste a partigiani. Ah sì, sì, ho capito quello. Sì. Noi partigiani, che potrebbero essere andate anche in onda, certo successo su Rai 3, probabilmente riprenderanno anche adesso a ridosso del 25 aprile, ecco, sono basate tutte queste interviste sull'idea, per esempio, cioè al centro dell'essere d'essere stati partigiani c'è la scelta, eh? E è come se questa scelta fosse l'inveramento di una qualità metafisica, per certi versi, irreversibile. Si resta partigiani tutta la vita, si fa questa scelta, è una specie di illuminazione sulla via di Damasco, no? È una visione così astratta, romantica e ingessata nello stesso tempo di una vicenda che è infinitamente più complicata e drammatica. Da questo punto di vista, tra le altre cose, il libro di Calegari serve a smontare una volta per tutte questa idea che esista la scelta, un momento dove fai la scelta. In realtà, se tu segui, come fa lui, i percorsi di questi partigiani prima di arrivare a Cravasco, prima di arrivare alla controrappresaglia, prima di entrare anche nella Balilla, scopri che in realtà dei 10 che sono partiti, 3 sono tornati, 2 sono morti, 1 non ci stava più, 1 si vergogna di quello che ha fatto, 1 invece lo rivendica fino in fondo, eccetera. Ma ti spiega anche che giorno per giorno ciò che è accaduto ti ha cambiato, che non c'è un essere partigiani astratto e deciso una volta per tutte, irreversibile. A seconda delle esperienze che fai, viene fuori, maturi, cambi, è l'esperienza stessa che determina il tuo essere partigiano, ma il tuo essere partigiano nel novembre del 44 è probabilmente molto diverso dal tuo esserlo stato nel maggio, perché l'intensità delle cose che ti trovi a vivere, a subire, a fare, è tale che ti modifica. E allora questo vuol dire avere un'idea del partigianato, della resistenza armata, come di un'esperienza dalla quale si esce diversi da come vi si è entrati. Ecco. Un'idea invece astratta, che io chiamo nazional popolare patriottica, è una specie di immaginazione abbastanza irrealistica, perché non ha un riscontro reale nell'Italia del 43, di una infinita schiera di baldi giovani che decidono di dar seguito all'amore per la libertà che hanno sempre avuto. Ma quando mai? Voglio dire, l'Italia del 43 è un paese dove la cultura politica, la coscienza antifascista, la determinazione a lottare per la libertà è una merce rarissima, no? E non puoi reinventarti a posteriori una storia che mette fra parentesi il fascismo e si consola immaginando un'identità nazionale sempre portata alla democrazia, alla libertà e alla lotta, perché sennò, tra le altre cose, non capisci come mai siamo stati gli inventori e le massime vittime nello stesso tempo del fascismo per più di 20 anni, e ancora ce l'abbiamo dentro, insomma, ecco. Quindi anche da questo punto di vista direi che il libro di Calegari rappresenta uno straordinario antidoto contro una serie di mistificanti, autoconsolatorie rappresentazioni della resistenza come l'inveramento del popolo italiano. Casomai la resistenza è stata, dal mio punto di vista, la resistenza armata è una meravigliosa eccezione, ecco, che va spiegata, perché è complicata, perché non era affatto ovvio che accadesse. Non so se sono stato abbastanza chiaro in questo. Mi viene da pensare che poi queste storie di resistenza vanno anche a raccontare un'Italia diversa, perché essere partigiani nei dintorni di Genova non è stato lo stesso che esserlo, ad esempio, a Roma, tornando a parlare Certamente. di gappisti, ad esempio, no? O in altre parti d'Italia. C'erano anche un racconto di un paese che era differente da quello che è oggi, ovviamente. Grazie, io ti ringrazio. Noi ricordiamo che abbiamo parlato di La siga di Hitler, Manlio Calegari, storie di strani soldati, questo è il sottotitolo, che sta uscendo perché non è ancora disponibile in libreria, se non sbaglio esce a giorni, costa 18 euro, sono 260 pagine, è il terzo libro della collana Storia Orale della Edit Press. Ne abbiamo parlato con Santopeli, che ne ha curato la prefazione, che andiamo anche soprattutto a ringraziare per la disponibilità. This shit sound like Days of Our Lives. Free nation out here pegging our ties. Say Moolah, give them 10%. That's too fucking much. That's like window tint. Shouts to such and such. Free. Salt trail, chiefing on the back porch, grilling each other. Conversation was penicillin, niggas healing each other. That's how the fam do. Free nation, rebel soldier, drop boulders, never pebbles. That's what I can't do. Pant like a Black Panther. The standards are Huey Newton or Bobby Seale or Cam Newton or Isaac Newton. You'll probably feel the apple off your forehead. Don't chalk it up to gravity. I'm dropping knowledge. Actually, I'm dropping college. Actually, I left without my credits. Give me credit, nigga. My credentials with this pencil put you on your toes. Put my soul on instrumentals. A foot fetish, nigga. Fuck with me, famo. If you don't, you couldn't hide at 50 camos. I'm with a chick you couldn't hump with 50 camelbacks. Booty like a camelback. Sick as 50 camel packs of cigarettes. Don't give me lip unless it's camel toe. Nights like we in Camelot. You could call him Lancelot. How I swing Excalibur at ignorance. Knights of the round table, knights with profound fables. Knights of this thrift shit, we found labels. They covet, love it, live it, pivot. Turn around on a dime if it's a buck on her mind. I could give a fuck if she fine. Give me nickels and quarters. We ain't building foundations fickle. I'm spitting that mortar. Snapping ladders like peanut brittle. The distance is shorter. It's like ripples on water. You could catch the wave like Lake Michigan hit in Wisconsin. When it's cold, but it's warm when Jackson's right next to your Johnson. They see that and they bring the action all over your Bronson. Brock worse. I'd be like, Negro, please. No matter how you see it, rap just like the Negro leaves. I'm talking trees and speaking truths. And they ain't got a motherfucking clue when the world gon' blow. The ground start to shake, you can bet I'm out the door with a blunt and a prayer for the fam. Fuck a hoe for the free, cause that's all my peoples know. That's the only way to go. Go, go, go. For the free, cause that's all my peoples know. That's the only way to go. Go. For the free, cause that's all my peoples know. And they ain't got a motherfucking clue when the world gon' end. So starting from the bottom, I'ma stack my ends. Swear to God that I never lose my soul for no bins. Negro, please, we gon' play this Negro League till we bleed. To the bleeds, eat my motherfucking knees. I be running with my dogs. Dogs, dogs. Got a motherfucking clue when the world gon' blow. The ground start to shake, you could bet I'm out the door with a blunt and a prayer for the fam. Fuck a hoe, Negro, please, we gon' play this Negro League till we bleed, till the fleas eat my motherfucking knees. I be running with my dog. L'altro ospite che abbiamo stasera, che andiamo a salutare, è Giovanni della rivista Zapruder Storie in Movimento. Ciao! Ciao, buonasera a tutti e a tutte. Allora, il secondo libro, un altro dei libri anzi, che andiamo ad affrontare oggi si chiama, è appena uscito, lo storico francese che ha firmato questo libro si chiama Joan Chapoutot, che già ha scritto, lui si occupa di nazisti e di storia, essendo storico ovviamente già da anni, già ha prodotto diversi libri, questo è il suo ultimo, che presenta una ricerca molto interessante, ossia quella di come il, ad alcune iniziative fatte, no, per quanto riguarda, se facciamo un passo indietro, come soprattutto una scuola di management, quella poi creata dall'ex generale SS, anche se non era realmente un generale, ma era una figura pari a quella del generale, fondò una scuola di management proprio nell'immediato dopoguerra. Lui si chiama Reinhard Hohn, è morto tranquillamente nel suo letto nel 2000 a ben 96 anni. Sì, e allora, diciamo che la prima questione da mettere a fuoco è che in realtà il libro di Sciaputò è molto più di questo, di quello che il titolo italiano, poi Nazismo e Management, mostrerebbe. È un libro breve, sono un centinaio di pagine nel concreto, ma in realtà mette a fuoco vari aspetti che sono forse resi molto meglio da quello che, se non sbaglio, il titolo originale, cioè che in Italia è stato messo a sottotitolo, cioè Liberi di obbedire, perché quello che l'operazione che fa Sciaputò in questo denso, breve, molto scorrevole libro è quello di mettere a fuoco non solo questa figura di Reinhard Hohn e della sua, diciamo, attività di formatore per il management, i quadri di impresa dell'esercito e della pubblica amministrazione tedesca del dopoguerra, ma in generale qual è tutta la visione, il punto di vista che persone come Hohn, ma non solo, diciamo tutta questa figura di intellettualità tecnocratica cresciuta all'interno nell'alveo del Partito Nazional Socialista Tedesco ha prodotto sia nel periodo nazista, ma ha poi portato avanti successivamente dopo la guerra. Quindi una delle tre dimensioni, direi, che se ne identificano tre in particolare è intanto quella della denazificazione. Della denazificazione mancata, evidentemente, a partire da quanto ci mostra Sciaputò, della Repubblica Federale Tedesca in particolare. Lo fa attraverso alcuni ritratti abbastanza emblematici. Ora, il tema della continuità fra fascismo in Italia, nazismo e i regimi repubblicani successivi alla guerra è un tema abbastanza ormai, come dire, noto, sviscerato, dibattuto. In Italia, per esempio, insomma, gli studi di Davide Conti sui prefetti sui funzionari della pubblica sicurezza in particolare, insomma, sono ormai abbastanza, come dire, noti, penso in particolare agli ascoltatrici e ascoltatrici e ascoltatori della radio. Sulla Germania, chiaramente, insomma, l'aspetto è forse ancora più, come dire, inquietante, perché dai vari tratti che Sciaputò presenta si dimostra che effettivamente la continuità non è stata solamente a livello di organi periferici, ma si è trattato di una vera e propria, di un'enorme lavatrice di personalità, anche molto con percorsi molto complessi per la loro ripulizia, prevalentemente provenienti da quell'ambito dell'apparato tecnocratico amministrativo nazista, e che in alcuni casi, come forse il caso più noto di tutti, quello di Eichmann, tentò una completa, diciamo, immersione e ridefinizione della propria esistenza a partire dalla Ratline, dalla fuga verso il Sud America, altre località, e al cambio di identità, mansioni, lavoro, profilo. Ma invece, paradossalmente, quanti hanno invece provato a dare continuità alla propria formazione, al proprio profilo professionale, a volte senza neanche cambiare nome, come è stato il caso di Reinhard Hohn, e l'esperimento è stato, come dire, ha avuto successo. L'elemento della denazificazione, diciamo, questa continuità, nel dibattito pubblico tedesco viaggia in maniera molto carsica fino agli anni 60-70, poi ci arriveremo per parlare proprio di quello che è poi il profilo principale, che è quello di Hohn. Nel 65 nella Repubblica Democratica Tedesca, quindi in Germania Est, esce un libro Bruno, un Braubuch, che è un'inchiesta in cui si mostrano una serie di personalità della Repubblica Federale che hanno avuto una evidente internità e collusione con il regime nazista. E tra questi anche viene citato Öhn, che però diciamo per altri 5-6 anni riesce a mantenere la propria identità abbastanza immacolata, fino a quando nel 71 un'inchiesta del Vorwärts, che era il quotidiano della il giornale della SPD, del Partito Socialdemocratico, non ne, diciamo, ne mostra in maniera ancora più sistematica le collusioni e la continuità. E, cosa che invece, scusa che ti interrompo, c'è un po' della retorica, no, intorno al passato della Germania, il fatto che la Germania sì che ha fatto i conti col proprio passato, quando invece la realtà è un po' più complessa. Ma arriviamo a l'esempio forse più, due esempi più emblematici, forse sono intanto quello di Hans Martin Schleyer, che è stato presidente, insomma un rappresentante della Confindustria tedesca, che venne poi rapito e ucciso dalla RAF, dalla lotta armata di sinistra della Germania nel 77, fu un caso insomma decisamente, come dire, una pietra miliare di quello che è stato il percorso della lotta armata tedesca, ma anche quello di Karl Schiller, che è stato addirittura non solo ministro dell'economia della Germania federale, ma quando venne emerso il suo passato nazista era membro della SPD, quindi del Partito Socialdemocratico. Poi, come Sciaputo sottolinea, come tanti, è passato al Partito Liberale, alla FDP, che è, come la definisce Sciaputo, si è nei fatti mostrata essere una vera e propria lavatrice di ex nazisti. Ora, invece, la seconda dimensione, sempre di questo tema del libero di obbedire, quindi di come il regime nazista e parte del suo apparato tecnocratico intendesse, come dire, l'organizzazione della società in un futuro, diciamo, post-bellico dominato dalla svastica, era quello del Kraftdurchfreud, cioè la forza attraverso la gioia, che era l'organizzazione, come dire, welfaristica, ispirata in parte a quella del regime fascista italiano, con cui si organizzava tutta la vita sociale, si compivano investimenti anche ingenti, si parla di un miliardo di euro attuali, ora non ricordo la cifra in Reichsmark, che Ti sento meglio. E ora vai, riparla, tanto poi posso tagliare e pulisco, quindi non ti preoccupare. Dicevo, una delle altre dimensioni del liberi di obbedire nazista era quello della Kraftdurchfreude, cioè della forza attraverso la gioia, ovvero di quell'apparato enorme e economicamente molto solido di welfare, potremmo dire, che il regime nazista aveva improntato sull'idea di quello italiano, ovvero quindi investimenti molto ingenti, si parla di circa di un miliardo di euro attuali tra il 35 e il 39, non solo in attività sociali e culturali, ma anche ad esempio in ergonomia e altre forme di organizzazione del lavoro, che chiaramente, come avviene anche in Italia, nonostante il dibattito potrebbe, diciamo, mistificarne un ruolo, come dire, progressivo, erano funzionali alla costruzione di un apparato produttivo efficiente, sottomesso e appunto soddisfatto di condizioni di lavoro che però effettivamente erano tutte orientate alla costruzione di un'enorme comunità nazionale, etnica, razziale, basata su questi principi di gerarchia e obbedienza, ammansendo fondamentalmente tutte quelle che erano le possibili e i possibili elementi conflittuali che all'interno del mondo economico si potevano dare. Questa è una vecchia tradizione prussiana prima, tedesca dopo, il sistema previdenziale che viene impostato a partire da Bismarck, il sistema in Germania che serve a prevenire le eventuali, diciamo, pulsioni rivoluzionarie, perché c'è un vero e proprio, quello che Sciaputo mostra, è un vero e proprio terrore dell'establishment tedesco di sommovimenti sociali che possano effettivamente ribaltare un sistema altamente, come dire, strutturato, formalizzato e gerarchizzato. Arriviamo a questo punto a proprio al tema, al cuore di quello che poi appunto l'elemento più, forse narrativamente più interessante, è quello appunto del ritratto di Reinhard Sonnino. aderì al nazismo nel 1933 al Partito Nazionale Socialista, già appena diciamo, preso il potere, ma fondamentalmente un percorso interno all'SD, cioè al sistema, all'apparato di sicurezza, da vero e proprio intellettuale. Era un giurista e si afferma come diciamo teorico della Gemeinschaft, della comunità, ovvero di questa impostazione teorica molto comune, molto diffusa nel mondo nazista, che vedeva una sorta di futuro che facesse in parte anche, almeno questo è quello che Azzarda ci ha avuto come elemento diciamo teorico principale, dello Stato, una centralità della comunità razziale che diciamo nei principi, il suo principio quella della Menschenführung, cioè nella leadership, che appunto era impersonata in quel caso da Hitler, ma poteva essere diciamo ritradotta a cascata verso tutti gli elementi della base della società tedesca, in particolare nell'apparato produttivo. Tanto è vero che Höhn, nel momento in cui appunto questo diciamo è l'elemento come dire chiave della narrazione, finita la guerra, dopo un periodo come dire carsico di in cui tanto esercita una sorta di attività pseudo medica alternativa, fondamentalmente riesce negli anni 50 a dare vita a Bad Hersburg in Sassonia, a dare vita a una scuola di magia portata su per esempio ad Harvard o in Francia, per ricreare per fare una formazione adeguata all'economia postbellica che si andava ricostituendo. E Chaputo ricostruisce attraverso le fonti, principalmente sono sia bibliografia di carattere storiografico, sia gli scritti dello stesso Höhn, che fu molto prolifico, viene più volte diciamo descritto come un soggetto verboso, un ottimo formatore, ma fondamentalmente una persona a cui anche molto narcisistica come personalità, a cui piaceva molto mostrare proprio le proprie se non ti sento meglio ora sì ecco. Vai. Dicevo, Höhn viene descritto in più occasioni come un soggetto, come dire, verboso, narcisistico, a cui piace mostrare il proprio sapere, e tanto è vero che è una delle fonti più utilizzate da Chaputo è proprio quella degli scritti lasciati da Höhn stesso, delle pubblicazioni, articoli in cui lui tratta, spazia nell'intero dopoguerra, dagli anni 50 a fondamentalmente gli anni della morte nel 2000, spazia a 360 gradi in molti aspetti giuridici, sociali, psicologici, economici dell'organizzazione del lavoro. Chaputo ricostruisce che per la sua accademia di Bad Hersburg sono transitati oltre 600.000 tra quadri, manager, quadri dell'esercito, della Bundeswehr e quant'altro, fondamentalmente abbia costituito per almeno un ventennio dopo la guerra l'ossatura dello Stato della Germania federale. L'elemento, diciamo, dopo che tutto questo appunto, come dicevamo, impostato secondo una logica superare le rigidità dell'amministrazione prussiana e impostare il nuovo Stato tedesco secondo dei principi che avevano da un lato un aspetto molto profondamente moderno, e quindi in questo Chaputo si colloca dentro una riflessione abbastanza condivisa del nazismo come del profilo della modernismo autoritario proposto dal nazismo, che è una riflessione ormai abbastanza consolidata da autori come Bauman, Agamben, eccetera, non è come dire esattamente nuova, ma insomma la consolida questo tipo di approccio, ma dall'altro con come dire delle radici molto profonde nella storia tradizionale germanica, che appunto supera l'idea di Stato, dello Stato nazionale, una gerarchia orizzontale che ha le sue indicazioni strategiche impostate da quella che è la leadership della comunità, ma a sua volta poi delega nelle metodologie, nella tattica in qualche maniera, al funzionario amministrativo, al manager, al quadro o all'ufficiale militare. Tutto questo appunto con delle radici che secondo la teoria dell'Accademia di Bad Hersburg aveva le sue origini in una come dire, in una innata ideale di libertà che le comunità germaniche preromane diciamo rappresentavano in maniera appunto ideale, quasi mitologica. E cosa succede? Quando emerge il passato nazista di Höhn, in realtà, quindi negli anni 70, nei primissimi anni 70, in realtà, come Sciaputò ha modo di ricostruire, non c'è solamente un moto di disgusto da parte della, non solo della società, ma dell'establishment tedesco che era esente da questo genere diciamo, di trascorsi verso la capacità di ricollocarsi nelle alte sfere del mondo politico ed economico di questi personaggi, ma in parte c'è anche una ridefinizione dei principi della teoria del management che a partire ad esempio dagli anni 70, primissimi anni 70, ai 70 si tiene il primo St. Gallen Symposium in Svizzera, che diventa in qualche maniera il nuovo paradigma, ed è un paradigma questa volta che si situa storicamente dentro quella grande transizione che a partire dalla metà degli anni 70 porta verso la grande trasformazione post-fordista, che in termini diciamo di cultura manageriale introduce principi come quelli del lavoro di equipe, del coinvolgimento del quadro e del manager anche nella decisione delle indicazioni strategiche, quindi non solamente essere libero di obbedire a delle indicazioni precise che arrivano dai vertici, ma di partecipare alla definizione di questi obiettivi. Quindi, come dire, quello che Sciaputò spiega è che da un lato è vero che c'è uno smascheramento, c'è un superamento, tant'è vero che poi l'Accademia di Bad Hersburg andrà un po' anche economicamente come dire, andrà a gambe per aria, avrà delle alti e bassi, ma insomma fondamentalmente perderà in maniera molto radicale la propria centralità e anche economicamente non sarà più florida come era ai suoi esordi, ma in parte anche, come dire, il capitalismo riesce a il capitalismo sente un'esigenza di a livello globale di ridefinizione dei propri anche principi etici teorici che sono quelli con i quali noi ci muoviamo, diciamo, chi lavora in impresa insomma tende a muoversi oggi, salvo che poi alcuni elementi sono rimasti, perché Sciaputò li riconosce in alcuni elementi, in alcuni temi, ad esempio di gestione delle filiere logistiche, dove l'elasticità nell'aspetto operativo è comunque sottomessa a una logica molto rigida di impostazione degli obiettivi sui quali poi il sottoposto non ha praticamente nessun margine di concreto di decisione e intervento. Curiosa la parte del linguaggio, proprio di questa parte qua, perché allora Sciaputò lui non dice che il management moderno deriva dal nazismo, ok? Non dice questo, lui fa tutto un discorso in cui dice che ci sono degli elementi di continuità, e quella del linguaggio, no, forse è una delle cose più curiose, perché ci sono, no, dei passaggi, come anche raccontavi, anche nell'organizzazione del lavoro stesso, ci sono c'è della contemporaneità. Della contemporaneità, no? Il lavoro, il gioioso lavoro, no? Era, mi sembra un po' quelle aziende nel nord Europa dove all'interno, no, del posto di lavoro ci sono anche degli strumenti ricreativi. Ma allora, il discorso, appunto, come dicevo, non è nuovo, nel senso che in realtà un'idea di welfare aziendale pubblico, che però fosse impostato a rendere una comunità partecipe, organica anche fondamentalmente mansueta, è storia, come dire, che ha ormai quasi due secoli, non è niente di, come dire, non è assolutamente nulla di nuovo. Che durante, diciamo, i regimi totalitari si siano costruiti dei processi che sono stati definiti come di nazionalizzazione, attraverso le attività ricreative, attraverso l'identificazione con le organizzazioni che inquadravano dal bambino fino alla madre, fino appunto al lavoratore, dentro un quadro, come dire, di stato, di società organica, perché appunto nella dialettica che Sciaputo mette in luce c'è una, come dire, una critica anche al concetto di stato nazionale come era emerso dall'età moderna e poi. In realtà, insomma, come dire, sono radici con le quali noi abbiamo, come dire, facciamo ampiamente i conti ormai da almeno due secoli. Non ci sono elementi di partenza e novità. Elementi di novità sono quelli che vengono introdotti dal punto di vista della, diciamo, della cultura tedesca sull'idea di superamento delle rigidità amministrative alle quali lo Stato prussiano aveva, secondo questi tecnocrati tedeschi, aveva, come dire, abituato l'operatività di tutti gli apparati pubblici e non solo. L'elemento, diciamo, il profilo proprio più, quella banalità del male che viene raccontata nel processo Eichmann a Gerusalemme è paradigmatica. Un personaggio che di per sé, come dire, svolgeva il suo compito, che era quello di organizzare i trasporti, logistica dell'olocausto, lo svolgeva nella maniera, come dire, appunto, senza porsi un granché domande rispetto a quello che era l'obiettivo finale a cui poi sarebbe dovuto aggiungere la sua opera, ma come se si trattasse di spostare le forniture o gli alimenti, tanto è vero che tutto questo, tutto questo apparato che andava da Albert Speer, dall'architettura del nuovo Reich fino all'organizzazione della produzione nei territori orientali, appunto era estremamente ampio e riguardava sia come dovevano vivere i tedeschi, cosa dovevano fare nel weekend i tedeschi, ma anche appunto dove si sarebbero prodotti determinati generi alimentari, quali filiere avrebbero. Era effettivamente una nuova ridefinizione dell'organizzazione della società e della politica e dell'economia tedesca. Quello che ci dà, diciamo, come dire, quello che Sciaputò inserisce dentro un discorso, diciamo, che sta più all'interno a capire le origini della nostra società contemporanea, in particolare di quella tedesca, è questo fatto che quegli elementi venissero ancora reputati legittimi all'interno dell'organizzazione postbellica, oltre al fatto che appunto noi ancora oggi dobbiamo fare i conti con una certa cultura imprenditoriale che responsabilizza in maniera alienante, acritica, i sottoposti senza renderli parte delle decisioni strategiche, e quindi fondamentalmente creando dei, appunto, come li definisce Sciaputò, dei liberi di obbedire, con l'illusione appunto di essere completamente liberi e autonomi, ma poi effettivamente non poter avere voce in capitolo. È un, diciamo, sicuramente rispetto a quello che era l'ottica del patto fordista degli anni 50-60, quello che manca non solo chiaramente nella società tedesca, ma in tutta la società occidentale, è l'elemento chiave del welfare, per cui sì, vado a lavorare, sì, sono un soggetto produttivo, sì, la mia lavoro e consumo per tenere in piedi un sistema economico efficiente, ma so anche che ho tutta una serie di tutele. È un discorso sicuramente altro, più lungo, più complesso, ma in quello a cui invece siamo stati abituati a assistere negli ultimi decenni è una completa erosione di questo meccanismo, per cui perversamente qualcosa che amplia un aspetto, diciamo, che amplia le nostre margini decisionali dal punto di vista produttivo, non è compensato però da una quella rete di protezione che per buoni 30-40 40 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale ha garantito una progressiva crescita delle società, un progressivo aumento del benessere nelle società, parliamo specialmente dell'area euroatlantica, chiaramente. Allora, noi abbiamo parlato finora di nazismo e management di Giovanni Chapoutot, uscito per Einaudi Collana Passaggi, 128 pagine, 15,50 euro. Chapoutot, che oltretutto, sempre per Einaudi, erano usciti altri tre titoli: La legge del sangue, Il nazismo e l'antichità, Controllare e distruggere. Tra l'altro, della legge del sangue anche mi hanno parlato molto molto bene, che si andrà a leggere prossimamente. Chiudendo, un motivo in più per buttare un occhio su questo testo che stiamo raccontando, è comunque un testo che vale la spesa dei 15,50 euro in libreria, perché ha appunto delle curiosità che hai spiegato molto bene. Qual è un motivo in più, vuoi sapere? Sì, un motivo in più così per chiudere. Ripeto, sicuramente è un buon, intanto perché è una lettura estremamente agile e quindi con, esatto, veramente un impegno relativamente basso dal punto di vista del tempo, della concentrazione, e introduce ad un dibattito che non è nuovissimo, però pone sia con una narrazione molto molto fluida e, come dire, e gradevole, degli elementi di diciamo, fanno scattare alcuni processi di ragionamento non banali, con i quali, insomma, penso che in tanti e tante siamo portati a doverci confrontare nel nostro quotidiano, rapportarci con il mondo del lavoro. Sì, infatti, hai detto bene, è un libro sintetico, se vuoi sintetico, ma di fruizione abbastanza semplice. Poi, nonostante, poi dentro c'è parecchia roba, nonostante le 100 pagine abbondanti, nonostante appunto il fatto che lui cerchi di esporre in maniera semplice, poi ti ci porta a comprendere ed arrivare su diversi aspetti, e questo pure io l'ho apprezzato molto, il fatto che riesca a essere fruibile, che non è detto che un libro, un saggio del genere sia automaticamente fruibile, visti i temi che va a trattare. Grazie a Giovanni, grazie a Giovanni della rivista Zapruder Storie in Movimento, che, con cui ogni tanto collaboriamo. So don't call me a nigga, unless you call me my nigga. I'm a king, O.E. Be slipping, falling from my chalice. Don't mind the bumper that was missing from my carriage. It's poorly tinted, but my women not embarrassed. I came to bury your average. You feel slighted, ay. It's like she know that I got it. It feel like it, ay. I real life it, ay. I spill vices, ay. You will like it, I promise. It's trail vomit, I'm honest. Nigga, ain't no getting money on that conscious shit. I'ma just load my gat on some survival shit. And when I hear they got a drought on it, I take a month out of rap and I hustle till I'm out of it. I got that coke flow, that heat rock. I got that old school, huddle to the beatbox. Baby, I'm just digging in your cushion for the sweet spot. I'm a beat thot till that motherfucking beat drop. My killers, my dealers, my trickers, my bros. For my sister, my women, my bitches, my strippers, my hoes. I got love for my niggas, my killers, my dealers, my trickers, my bros. I got love for my sister, my women, my bitches, my strippers, my hoes. I got love for my niggas. Hope they don't kill you 'cause you black today. They only feel you when you pass away. The eulogy be so moving. We live the scenes of those movies. Conflict in school or dope moving. It's so youthful. But if you die today, I hope you finding some relief or what a great escape. We still dodging from police when we make a plate. They lying searching in my bucket with the straightest face. It could be 88. Sometimes I wonder why we kill us, why they killing us. I think we only were a grill because they grilling us. Or how they feeling us. Gotta look real and tough. Gotta keep your hands in the cart. Know you stealing stuff. Came a long way from a boat and an auction. Now we got names in a vault, in a coffin. Ain't shit changed but the coast. We adopted little black children. You can call me that nigga, nigga. Diamo il buonasera all'ultimo intervento, diamo il buonasera a Mauro Capocci, ricercatore e docente di storia della scienza e storia della medicina, della medicina all'Università di Pisa. Ciao Mauro. Salve a tutte e tutti e grazie dell'invito. Con te andiamo a parlare dell'ultimo libro che avevamo scelto per questa sera, un libro uscito alcune settimane fa, forse un paio, due o tre mesi fa a dire il vero. Si chiama Bestiario nazista di John Mulhaupt, non so come si pronuncia perché lui è tedesco, quindi ho veramente un grandissimo problema nella pronuncia di questo. Ecco. Molto semplice. Mi sono mezzo avvicinato, che lui è uscito per Bollati Beringhieri, proprio appunto come raccontavo qualche settimana fa. È un testo che abbiamo scelto di legare anche a quello precedente, che è Management e nazismo, un testo di 208 pagine, quindi non è un testo particolarmente lungo, costa 20 euro e va a trattare di come venivano usati gli animali nel Terzo Reich, anche non semplicemente come strumento di propaganda. No, assolutamente, gli animali sono sia propaganda ma anche sono strumento di costruzione dello Stato totalitario del nazismo, così come era successo già in altre dittature, come poi succederà appunto in altri ambiti in cui il totalitarismo diventa il modo di costruire lo Stato. In particolare Mohaupt, in questo Bestiario nazista, si occupa di animali simbolici in cui appunto il ruolo di propaganda poi però si va a incastrare, si va a intrecciare con le vicende industriali, alimentari, agricole del Terzo Reich, in cui notiamo appunto per esempio l'importanza bellica del cavallo nel fango delle pianure russe. Ovviamente si intreccia anche con il grande vecchio stile della cavalleria tedesca, che era ancora in qualche modo tradizionalmente considerata il modello del soldato, o così come i cani così amati da Hitler erano per altri invece un problema, perché comunque gli animali domestici consumavano cibo che potevano essere dedicati, cibo che poteva essere dedicato agli umani. E quindi in qualche modo ci sono appunto le contraddizioni di un regime che appunto dal lato della propaganda dice di essere il regime che tratta meglio gli animali in assoluto. Ricordiamo appunto che Hitler fa vanto di essere vegetariano, odia la caccia, diciamo disprezza la caccia, laddove poi in realtà da tanti altri punti di vista l'animale viene appunto reso fondamentalmente strumento della dittatura, non solo come propaganda ma anche appunto come dominio anche tecnologico fondamentalmente. In più l'animale ha l'aspetto della metafora per molti versi, per cui ecco, a seconda degli animali c'erano percezioni diverse e venivano utilizzati questi animali come metafore ovviamente dei gruppi sociali a cui venivano associati, per cui magari secondo alcuni dei gerarchi nazisti il gatto era come l'ebreo, infido, troppo indipendente, urbano e non selvatico, laddove ovviamente invece il leone aveva una sua nobiltà ed era più associato magari insieme al lupo alle caratteristiche migliori del popolo veramente tedesco. Sì, hai detto molto bene, perché poi si è sempre fatto dell'ideologia nazista, si è sempre parlato del suo animo animalista, quando di animalista non aveva assolutamente niente, anzi l'animale entra a far parte proprio del circuito industriale più che in passato. Sì, sicuramente, anche perché appunto il Terzo Reich aveva imparato molto bene la lezione della Prima Guerra Mondiale dal punto di vista dei problemi alimentari. La Prima Guerra Mondiale, oltre che dall'influenza spagnola, era stata anche funestata per i tedeschi da una fortissima carestia negli ultimi anni di guerra, con una difficoltà proprio a mangiare per il popolo, e quindi una delle prime preoccupazioni per la Seconda Guerra Mondiale era quella di assicurare l'indipendenza alimentare dell'impero tedesco, dell'impero nazista. Per fare ciò hai bisogno di ovviamente animali da ingrasso, animali che possono essere poi macellati, hai bisogno ovviamente di un'agricoltura che sostenga questi animali, quindi le patate per i maiali e appunto per far ingrassare i maiali hai bisogno di patate resistenti ai parassiti, ovviamente i parassiti erano anche i parassiti delle altre nazioni, oppure i parassiti interni come naturalmente gli ebrei, che per il nazismo erano equiparati appunto agli insetti che rovinavano le patate ariane sui campi e impedivano poi ai maiali tedeschi che sostentavano il popolo tedesco di crescere. Da questo punto di vista però appunto vediamo anche come la società nazista, così come altre dittature, il fascismo in Italia ma anche il Portogallo salazariano, hanno un approccio fortemente tecnocratico sulla natura. Se da un lato hanno una propaganda e si amano ritrarre in una certa ideologia quasi passatista di ritorno a una natura antica, una tradizione fatta di appunto di foreste, boschi e sana vita campestre, d'altro canto il controllo sulla natura, il controllo industriale sulla natura è parte integrante di questi regimi, per cui la selezione delle patate e l'uniformità, per esempio, delle varietà di patate che vengono cresciute in Germania, coltivate in Germania, la selezione e l'uniformità delle varietà di maiali allevate in Germania sono degli aspetti fondamentali nel forgiare l'identità tedesca anche. Il maiale tedesco è uno, fondamentalmente, è un tipo di maiale e tutti devono allevare quel tipo di maiale, e anche la macellazione privata non è più permessa a un certo punto per evitare tutta una serie di problemi, nonché l'allevamento appunto viene controllato strettamente, così come per esempio in Italia o in Portogallo viene controllata molto da vicino la semina delle varietà di grano. Le varietà di grano della Vittoria italiano è appunto il grano che viene distribuito dal regime, e guai a chi non usa quel grano, viene accusato di essere appunto all'antica, arretrato, magari un grano che è ben adatto a alcune condizioni ambientali viene eliminato in favore delle varietà di grano imposte dal regime, anche con ovviamente dei problemi da questo punto di vista, perché poi alcuni impianti falliscono nel corso del tempo. Però appunto c'è proprio un dominio della natura nella costruzione dello Stato totalitario nazifascista che è fortissimo e che appunto contrasta con quella propaganda invece del ritorno alla natura, del Blutungboden, della tradizione, quindi un richiamo a un'antichità del sangue. L'antichità, diciamo, funziona a livello propagandistico, poi nella pratica di tutti i giorni si fa altro, appunto si usa la tecnologia, la scienza più avanzata per cercare di raggiungere i propri fini. C'è anche un altro aspetto che, allora, il libro ha una struttura narrativa per cui diciamo che c'è un animale a capitolo, per intenderci, però lui parla anche di come nella pedagogia, nell'educazione, dagli anni 30 agli anni 40, gli animali hanno avuto un ruolo esemplare, ovviamente parliamo sempre del regime nazista. Vado a leggere da uno stralcio: in che modo persino i più giovani venissero educati alla guerra e al combattimento, lo vedremo nel caso dei bachi da seta e delle dorifore della patata. Gli insetti, come si deduce dai libri scolastici per l'infanzia, erano utilizzati per spiegare ai bambini cosa e soprattutto chi fosse un infestante, un opportunista, un parassita in senso nazista. Che era quello che stavi dicendo, però l'applicazione nella pedagogia è molto singolare, no? Delle certo. metafore animali. E rientra nella costruzione sì, dell'immaginario nazionalsocialista. Assolutamente, ma anche lì appunto con l'idea poi di indipendenza alimentare e tecnologica. Appunto i bachi da seta iniziano a essere allevati nelle scuole, in tutte le scuole, insieme alla ovviamente alla cultura dei gelsi che servono per alimentare questi bachi, fanno parte dei compiti dei bambini che durante un'ora di scuola vanno a portare le foglie ai bachi e un'altra ora di scuola magari la dedicano appunto ad andare a raccogliere le foglie dei gelsi sui viali della città dove abitano. Questo perché appunto serve l'indipendenza dalle importazioni di seta per la seta dei paracadutisti, fondamentalmente non ci riusciranno mai a raggiungere l'indipendenza da questo punto di vista, però si cerca di costruire sin da piccoli, se appunto sui bambini sin da piccoli, si cerca di costruire questa idea di strumentalità di ogni cosa, di ogni aspetto della natura. Ovviamente il discorso viene ribaltato nel momento in cui si parla delle dorifere, della dorifera della patata, che è una farfalla importata per errore dagli Stati Uniti, nel senso arriva come insetto straniero in Europa dagli Stati Uniti ed è un voracissimo predatore per cui distrugge le piantagioni di patate e viene indicato appunto come un obiettivo da eliminare, per cui se da un lato c'è un insetto che vale la pena di salvare, dall'altro c'è un insetto che va sterminato e si impara da subito che l'insetto più o meno appunto è come gli ebrei, come gli zingari, devono essere sterminati, non sono insetti degni di essere salvati. E ovviamente vengono attribuita la loro presenza, questi insetti, a potenze straniere, a un nemico che ha fatto entrare da noi questo, da noi tedeschi, appunto nel mondo nazista, ha fatto entrare questo traditore della patria che distrugge ogni tipo, ogni cosa che incontra, e in particolare una cosa così importante come le patate, che appunto, come abbiamo detto, erano fondamentali per l'alimentazione del maiale tedesco e dei popoli, del popolo nazista. Ma d'altra parte sui bambini ci sono anche tante altre cose, azioni che vengono fatte su, per esempio nei giardini zoologici, nell'utilizzo di animali simbolici, nella costruzione appunto di un immaginario che comprende tutto. Comprende tutto, comprende la figura del capo che viene visto insieme a determinati animali, contiene il fatto di mostrare la potenza coloniale, per esempio, di una nazione. Nei giardini zoologici troviamo gli animali delle colonie che vengono appunto importati per far vedere quanto è potente l'impero. Questo succede in Germania, ma succedeva anche già prima in Italia. C'è un pezzo, ci sono diversi pezzi del libro in cui si parla di Hermann Göring e dei suoi leoni. Si teneva dei cuccioli di leoni in casa fino a che non crescevano troppo, poi li dava ai giardini zoologici. È una pratica che appunto Göring fa nei primi anni 30, negli anni 30, diciamo, nei primi anni della dittatura nazista, ma che Mussolini fa già in chiave leggermente diversa nei primi anni 20, nel 24, quando decide di rilanciare il giardino zoologico di Roma, una delle cose che fa è andarsi a fare le foto con i cuccioli di leone che vengono partoriti da una leonessa, la leonessa Italia, che viene importata dalle colonie africane. E nascono questi tre cuccioli della leonessa Italia che vengono chiamati Bebè, Nini e Totò, così che facessero appunto tutti e tre insieme Benito. E ci sono le foto sui giornali appunto di Mussolini in vestito normale, con anche il cappello, la bombetta, così, con in mano i cuccioli di leone nello zoo di Roma. È appunto un modo di costruire potere immaginario che va oltre la semplice propaganda, è proprio appunto un tentativo, che è appunto il tentativo dello Stato totalitario, di costruire certe cose sin dai bambini, utilizzando appunto mezzi, strumenti di comunicazione che fanno presa, perché scavano a fondo appunto già sui bambini. Non è semplicemente la diffusione di false notizie o di notizie cambiate, è proprio un'associazione di simboli che alla fine crea una cultura. Guarda, poi c'era, lui ricorda giustamente l'autore che anche ad esempio lo sviluppo della corrente vegetariana all'inizio del nazismo, che tra l'altro di vegetarianesimo si comincia a parlare in Gran Bretagna nel XVIII secolo, spiega, non si trattava certo del tipico ideale nazionalsocialista, nonostante poi nei primi movimenti per i diritti degli animali c'erano diversi gruppi non riconducibili al nazionalsocialismo, anzi spesso e volentieri alla sinistra, come per esempio la Società per la Promozione della Tutela Animale e Attività Correlate. Fatto sta che il nazismo sussume il vegetarianesimo, appena prende il potere scioglie tutte queste associazioni di tutela degli animali, perché questo fanno, e compreso le associazioni vegetariane, perché ricrea tutto un loro, perché a loro serve ricreare un loro immaginario, e per esempio nel 1933 annunciano una nuova legge sulla macellazione, in cui dice le bestie a sangue caldo devono essere stordite prima che inizi il sanguinamento, tra le varie cose. Il riferimento a tutti gli animali a sangue caldo, scrive l'autore, è una novità, dal momento che comprende anche le galline e gli altri votati. Comunque questa contraddizione, no, che c'è nella propaganda nazionalsocialista, che da una parte incolpa gli ebrei di trattare male gli animali, mentre loro sono quelli umani che li trattano bene, però allo stesso tempo, come raccontavi anche poc'anzi, sono tra coloro che poi, no, la macellazione, tanto quanto la produzione di carne da macello, diventa industriale proprio sotto il nazionalsocialismo, per tutti i motivi che abbiamo spiegato finora. E sono delle curiosità molto, molto particolari, no? Chiaramente la superiorità ariana si mostra appunto anche nella sua capacità di mostrare empatia quando è necessario. Ed è necessario quando hai davanti un essere vivente che è utile alla tua causa. L'ebreo, lo zingaro non sono utili, anzi sono nocivi alla causa nazista, per cui sono trattati peggio degli animali, semplicemente. Sotto in qualche modo gli animali, vengono, come abbiamo sempre detto, vengono deumanizzati, ma non solo, vengono proprio resi oggetto totale, non servono, serviranno forse poco alcuni di loro nei campi di lavoro, come lavori forzati, come schiavi, ma alla fine appunto verranno macellati anche peggio e senza alcun tipo di remora rispetto agli animali. È chiaro, tra l'altro, quella legge sulla macellazione appunto che citavi è fatta appunto per rendere fuori legge, o quantomeno tentare di rendere malvista, invisa al popolo tedesco appunto quel tipo di macellazione rituale degli ebrei, quindi la carne kasher, cui il dissanguamento dell'animale è ottenuto in un certo modo, viene resa fuori legge grazie a questo provvedimento nazista. Dopodiché è chiaro, appunto, rendono industriale, come tanti altri, d'altra parte in quel periodo tutta l'Europa sta rendendo industriale, tutta l'Occidente sta rendendo industriale l'allevamento. Cosa ci sia di umano nell'allevamento industriale lo dobbiamo ancora capire, al di là della macellazione, ovviamente. Io poi ti parlo da quasi vegetariano, non mangio carne da 15 anni, quindi per altri motivi, non semplicemente per etica animale, ho a cuore la sorte degli animali, ma per altri motivi, diciamo. Sicuramente appunto i nazisti, e in particolare appunto Hitler, hanno questa idea del vegetarianesimo, soprattutto Hitler appunto, che è legato soprattutto al culto del corpo del nazismo. Hitler aveva questa idea piuttosto che un'idea di di grande empatia nei confronti degli animali. Quello che usciva all'esterno però era comunque appunto il fatto di potersi prendere cura di questi animali, e ci si prende cura più degli animali piuttosto che degli ebrei o degli zingari. Come ricorda poi il nostro autore, tra l'altro, no, che queste, quando però c'era da conservare il potere, ora vittoria in guerra, poi i nazisti erano molto vaghi su questi temi, e lui fa l'esempio quando per esempio l'SS, comunque i vari reparti andarono a combattere nei Balcani e nell'Europa dell'Est, dove combatterono al fianco di migliaia di mercenari musulmani, lì nessuno disse che non si poteva macellare la carne tramite il rituale halal. No, assolutamente, poi la guerra è guerra, nel senso, io guarda, appunto adesso abito a Pisa, e appunto una dei fatti che si legge più spesso di Pisa è che qui nella tenuta di San Rossore c'erano dei dromedari fin dal 600 importati dai Lorena. Le truppe naziste, in particolare i mongoli, nell'estate fine del 44, quindi quando da queste parti passava la linea gotica, di fronte a questi dromedari, non, ovviamente di fronte alla fame, non hanno avuto alcun tipo di problema, hanno macellato qualsiasi cosa, anche quando c'erano magari daini, cinghiali e altre cose, tranquillamente hanno sterminato la popolazione di dromedari di San Rossore, che diciamo è rimasta appunto così una leggenda locale. Sicuramente appunto in guerra, poi la guerra è guerra per tutti, la fame è fame per tutti, quindi diciamo, da questo punto di vista le norme ideali, mostrare empatia nei confronti degli animali, gli animali simbolo, diciamo, lasciavano il tempo che trovano. Sicuramente appunto quello che viene fuori nel libro è come l'uso strumentale di queste cose, di questi concetti, nel senso appunto Hitler era vegetariano e il suo compagno Göring era un appassionatissimo cacciatore di cervi, quasi ossessionato dalla cattura dei cervi. C'è chi addirittura appunto poi all'interno del regime tedesco cerca di ricreare questo antico bovino luro, che era appunto il bovino storico delle foreste europee, e cerca di fare una selezione a ritroso, un'evoluzione a ritroso delle mucche, selezionando alcune caratteristiche, fallendo clamorosamente ovviamente in questa visione. Però appunto diciamo c'è quello che emerge appieno, è che appunto c'è un tentativo di creare cultura, tradizioni inventate per la maggior parte, appunto nel momento in cui tu cerchi di ricreare un muro, contrariamente a qualsiasi tipo di legge biologica, di selezione, di evoluzione naturale, è chiaro che stai appunto inventando una tradizione sulla base di pregiudizi che stai cercando di avverare. Quindi appunto un controllo sulla natura, un controllo sul passato per avere poi un controllo sul presente e sul futuro, in questo modo, oggettivizzando di fatto la natura, rendendolo strumento non solo di propaganda, ma appunto proprio di dominio sugli altri popoli, sulle altre persone e appunto in più in generale sul mondo che ti circonda. Concludendo, Mauro, qual è l'altro aspetto che magari io non ho colto appunto del libro che ti ha incuriosito, ti è piaciuto? Io appunto da storico della scienza e storico della medicina sono appunto molto, molto colpito dalla capacità poi di individuare aspetti, cioè di mobilitare forze scientifiche a favore di questa dell'ideologia nazista, per cui di vedere come c'è tutta una classe di scienziati, di ricercatori, di tecnocrati che si presta volentieri a andare a fare ognuno il proprio piccolo pezzetto, a coltivare ognuno il piccolo orticello che fa da mattone per costruire il grande edificio del totalitarismo nazista. Quindi purtroppo appunto quello che si vede è che in pochissimi si sono appunto volendo essere buoni, diciamo in pochi si sono resi conto effettivamente di quello che sta succedendo, del momento in cui appunto fai le lotte contro la farfalla che uccide le patate tedesche, quanti di loro si hanno resi conto di essere anche parte di uno strumento, di una grande costruzione di propaganda e di dominio che andava oltre il semplice, la semplice agricoltura? E a questo punto, appunto, mi domando quanti di loro se ne fossero resi conto e quanti di loro hanno continuato tranquillamente a fare quel lavoro dopo essersene resi conto. E quindi non sono stati forse responsabili della soluzione finale degli ebrei tutti questi scienziati, però, come dire, forse, diciamo, vedendo da qui qualche responsabilità la possiamo trovare, o quantomeno oggettivamente hanno fatto la loro parte anche loro. Sì, non bisogna per forza premere il grilletto. È preoccupante, non sto dicendo appunto che dobbiamo andarli a prendere uno per uno e condannarli assolutamente. Sarebbe anche troppo tardi. Comunque, forse è troppo tardi, però no, è preoccupante. Sì, preoccupante, e bisogna tenere a mente nel guardare il presente. Tra l'altro, anche il fior fior di alcuni erano anche, diciamo, degli accademici o degli scienziati, neanche gli ultimi arrivati, ecco, per dire. No, assolutamente, sono scienziati rispettabilissimi che hanno lavorato in tutto il mondo e che, appunto, fino allo scoppio della guerra erano ospiti comunque, appunto, di tanti altri scienziati, come è normale nella comunità scientifica, insomma. Esatto, e comunque non bisogna per forza essere coloro che premono direttamente il grilletto per non partecipare, può essere non partecipanti a qualcosa, no? Come nel caso, esatto, che stavamo spiegando. Mauro, io ti ringrazio, ti mando un abbraccio e vado anche a chiudere qui la puntata di Tabula Rasa, che torna giovedì prossimo sempre dalle 20.